alla mattina. Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, ti risai a mi tocca andare. E fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca far, oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire montagna sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, per la libertà, e questo è il fiore.